Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Non manca molto all'esordio sul mercato di una nuova generazione di LED con caratteristiche nettamente superiori a quelle della generazione attuale. La notizia arriva da Cree, industria tra i leader mondiali delle tecnologie a LED, che aveva annunciato di essere pronta a mettere in produzione un nuovo tipo di LED a base di carburo di silicio, tecnologia studiata tra l'altro da altri due giganti dell'illuminazione come Philips e Osram. Tecnologia che consente soprattutto un'efficienza doppia rispetto a quella dei LED in commercio. Parliamo di 200 lumen per ogni watt di potenza impiegata contro i 100 dei normali LED e anche delle lampade a fluorescenza. Ecco, bisogna poi pensare che oltre a far consumare metà dell'energia elettrica, il raddoppio dell'efficienza dei LED ha anche diverse altre ricadute importanti. Oggi infatti il principale limite all'ulteriore sviluppo di questa tecnologia è rappresentato dalla difficoltà di dissipare il calore sviluppato appunto dai LED durante il funzionamento. Emettendo più energia sotto forma di luce, naturalmente i LED hanno molto meno calore da smaltire e questo è un vantaggio non da poco. La durata dei LED, per esempio, è fortemente legata alla temperatura di funzionamento. Più è alta questa temperatura, più la vita del LED è breve. La necessità di smaltire il calore porta anche a forti costrizioni per quanto riguarda la geometria dei dispositivi, quindi delle lampade. Per esempio, è impossibile fare lampade a LED molto piccole e potenti perché per dissipare il calore è necessario avere delle superfici di dissipazione ampie e quindi insomma di grandi dimensioni. Così il grosso della lampadina a LED finisce per essere dedicato a questo scopo, a disperdere il calore, mentre la porzione che effettivamente emette luce rimane molto piccola. Insomma, grazie al raddoppio dell'efficienza dei LED, tutte le componenti che gli ruotano attorno potranno essere ridotte di peso e di dimensioni, e così si dovrebbe arrivare a un calo anche nei costi tuttora elevati di questa tecnologia. E ora cambiamo argomento, anche se rimaniamo sempre in tema di illuminazione. Parliamo di un concorso che ci fa piacere segnalare alla seconda edizione. Riprenditi la città, riprendi la luce. Ce ne parla Margherita Susso, studio associati GMS, studio di progettazione e illuminotecnica, perché parliamo proprio di cultura dell'illuminazione. Buonasera Margherita Susso. Buonasera, grazie mille per questo contatto innanzitutto. Allora, chi può partecipare? In cosa consiste questo concorso? Come l'anno scorso, il concorso è un concorso under 30, quindi tutti i ragazzi sotto i 30 anni, è indetto dall'Associazione Italiana di Illuminazione, si chiama Riprenditi la città, riprendi la luce, quindi ancora quest'anno puntiamo all'idea di voler mostrare attraverso dei piccoli cortometraggi da 60 secondi, quindi un minuto, effettuati con smartphone, tablet e tutti i anche con device. Mezzi light, diciamo così, di ripresa light in mano a un ragazzo che può avere meno di 30 anni, insomma, che magari sì, non è un professionista ed è uno studente. Si tratta appunto di individuare, insomma, in qualche modo interpretare il ruolo della luce nella nostra città. E in particolare quest'anno, ecco, le categorie sono delle categorie anche abbastanza diversificate, pensiamo interessanti per questi soggetti a cui ci stiamo rivolgendo. Abbiamo proprio la luce nei luoghi, quindi la categoria luce luoghi, la categoria luce cinema, dove quindi la luce è vista proprio come a elemento, a supporto di una storia, di un racconto che può avvenire all'interno delle nostre città, oppure luce musica, quindi anche la delicatezza di questo strumento immateriale che può rivelare sentimenti proprio come una musica. Il concorso è internazionale e sono molto felice di dire che è stato accolto tra i concorsi dell'anno internazionale della luce, perché il 2015 è anno importante, importantissimo per questo settore, che insomma dedica particolare attenzione a tutte le iniziative e gli eventi culturali legati alla luce. Quindi si tratta di presentare un cortometraggio. Quali sono i termini, quando scade e quali saranno i premi, insomma? Allora, il concorso si è appena aperto, abbiamo presentato in conferenza stampa in triennale il concorso il 18 novembre, la chiusura del concorso è il 28 febbraio del 2015, la premiazione sarà a marzo del 2015. Che cosa si vince? Si vincono premi in denaro, per ciascuna categoria, e alcuni premi speciali anche sempre in denaro legati al light design, allo premio della giuria, insomma ci sono alcuni altri premi che possono essere certamente di interesse. Grazie Margherita Sussa e insomma in bocca al lupo per questa seconda edizione. Grazie.